into the groove, boy, you've got to prove your love to me, yeah. Amici, amici di Into the Groove e amici di Radio 23, bentrovati in questa Milano autunnale, uggiosa, piovosetta, freddissima, ma soprattutto bentrovati nel nostro caldo e accogliente salotto musicale. Oggi una giornata da mettersi le mani nei capelli per chi ce li ha. Io purtroppo, come avrete avuto modo di vedere, questa opportunità l'ho persa da molti, molti, molti anni. Perché mettersi le mani nei capelli oggi? Perché ho scelto di parlare con voi di un genere musicale molto complicato. Oggi affrontiamo il grande scoglio del rock progressivo, o prog rock, come ci piace chiamarlo fra noi amanti del genere. Perché è uno scoglio difficile? Perché è una musica complicata, complicatissima, intricata, molto cerebrale, ma anche molto molto coinvolgente. Vediamo un po', facciamo una breve introduzione, giusto per così, per circoscrivere l'ambito di cui andiamo a parlare. Intanto accomodatevi lì, ci sono delle poltrone libere, siete sempre in piedi sulla porta, entrate che nessuno vi morde. Oggi suono piano, ve lo prometto, perché davvero, mamma mia, che complicatezza. Allora, dicevamo, circoscriviamo un po' l'area di intervento. Dunque, il rock progressivo nasce come... Ecco, come nasce? Questa già mi sono incartato. Nasce, secondo me, come una, un modo, una voglia di superare certi schemi musicali che fino a quel momento avevano fatto da padroni. In un certo senso possiamo dire che non c'è più soltanto il jazz, soltanto il blues, soltanto il beat o addirittura la musica classica, no? I compositori del prog iniziano a mettere tutto questo insieme e per far stare insieme tutto questo enorme materiale, come dire, il batterista, i nostri eroi, devono in qualche modo adattarsi, no? A questi nuovi stilemi, a queste nuove forme musicali che vedono l'utilizzo di tempi complicati, di fraseggi più lunghi del normale. E quindi, come dire, se ecco, diciamo così, se in qualche modo fino all'avvento del prog la struttura ritmica anche del rock era basata più o meno sull'eredità lasciataci dal blues, cioè su delle battute quadrate, su dei giri armonici che in un certo senso a un certo momento ritornano nel loro alveo naturale, quindi c'è una sorta di pulsazione che naturalmente ci porta a capire quando una frase è finita. Nel prog questa cosa non esiste, o meglio, il fraseggio musicale non torna al proprio posto automaticamente. Diciamo che, ne so, nel blues il fraseggio musicale è sono tre accordi girati per quattro battute ognuno, quindi ogni 12 siamo lì. Nel prog questa cosa automaticamente non accade, ma non c'è niente che va a posto automaticamente, soprattutto non ci va in maniera automatica o facile. Perciò è una musica che va molto metabolizzata, va molto capita. Insomma, la sperimentazione musicale esigeva, come dire, nuove forme metriche, e quindi il nostro batterista doveva essere, lo sarà ancora oggi, la macchina, ecco, che sostiene tutte queste idee ritmiche, le fa stare insieme. Allora bisogna inventarsi un nuovo linguaggio musicale. Chi è fra i più grandi, e forse il più grande per me, sicuramente il più influente batterista che ha, come dire, scolpito le regole del prog rock? Parlo subito di Bill Bruford, o Bruford, io sono sempre in crisi con le pronunce. Bill Bruford si è rivelato al mondo, diciamo, come grande batterista già a partire dagli Yes. Lui era il batterista degli Yes, che hanno fatto davvero dei dischi memorabili. Ma superata la fase degli Yes, dove già si intuivano le potenzialità di questo grande artista, ma ancora non pienamente espresse, lui arriva alla corte del Re Cremisi, no? Come si chiamano, i King Crimson. Entra nei King Crimson del grande Robert Fripp, e a quel punto dai King Crimson lui regala, con i King Crimson, mi sto intricando, deve essere la pioggia, ci regala queste visioni batteristiche straordinarie, stratosferiche, si rivela davvero al mondo per tutta la sua grandissima capacità musicale. Come dire, nessuno come lui, come Bill Bruford, ha saputo in qualche modo connettere come dei tamburi al cervello, cioè è uno che ha una padronanza ritmica, una grande capacità ritmica e ha una anche grandissima indipendenza degli arti, perché per suonare queste ritmiche complesse è necessario avere grandissima indipendenza degli arti, quindi un cervello molto ben strutturato. È uno di quelli che ha inventato uno stile, ne ha inventato in realtà più di uno, e ha inventato anche dei ritmi, dei fraseggi, delle figure che sono diventate poi degli standard nel, diciamo, nel genere, no? È uno che, come dire, ancora sto cercando delle metafore, ma è difficile parlare di queste cose. È uno che il tempo lo destruttura, lo smonta e poi lo rimonta a suo piacimento in maniera comunque funzionale a quello che può essere il brano. Io il primo che ho scelto per così entrare subito nell'idea di base di questo genere musicale qua è proprio un brano dei King Crimson, credo del loro ultimo album. Il brano si intitola Red. In Red già si può ascoltare, intanto, come dire, si tratta di un brano prog metal, ante litteram. Adesso poi i più esperti di voi ci riconosceranno, io ci ho riconosciuto subito, ma insomma, molte qualità che poi ritroviamo nei dischi dei Dream Theater, ad esempio, no? E l'ho scelto perché è uno dei pochi dischi. Allora, la copertina del disco è meravigliosa, ci sono le tre faccione di appunto Bill Bruford, di Robert Fripp e del bassista che è Wetton, il quale in questo brano suona il basso distorto ed è uno dei pochissimi, forse l'unico brano realmente suonato in trio dai King Crimson, ed è come dire una struttura dove all'interno di questa ragnatela creata, diciamo ragnatela, ma insomma musicale creata dalla chitarra di Fripp, che è una chitarra corrosiva, cattivissima, no? E questo basso distorto potente, il nostro amico e Bill Bruford riesce a, come dire, a sguazzare, no? A sguazzare col ritmo, costruendo delle misure che vanno alterna al 4 quarti, al 5 ottavi, al 7 ottavi, insomma, sembra proprio che si diverta moltissimo. Allora, io ve la faccio sentire e poi la commentiamo assieme. Red. questo è il biglietto da visita del prog, eh? Allora, in realtà è un disco già tardo, è già un disco tardo, quindi siamo quasi nella fase del declino del prog rock, no? Poi chiamiamolo così. Ciao, grazie. Grazie anche a te, è stato molto bello, ma non erano per me gli applausi, erano per loro, perché mi piace sempre mettere le versioni più live dei dischi, perché insomma si capisce meglio la qualità del musicista. In studio è facile ingannare, dal vivo molto molto meno. Allora, dicevamo di Bill Bruford, ed entriamo un po' meglio in questo terreno minato che è il mondo dei tempi dispari. Avete forse ormai un po' di competenza, l'avrete acquisita insieme a me, sarete in grado di solfeggiare, no? Di contare i quarti di una canzone, e avrete probabilmente capito che in questa canzone qua di momenti realmente quadrati ce ne sono pochissimi. È una musica che inganna molto, perché ci sembra quadrata, ma in realtà c'è sempre qualche cosina che è spostata e non ci fa intuire bene per quale motivo. E adesso proverò a spiegarvelo. Cerco di essere poco tecnico, come ho sempre promesso, e poi ragazzi sono in grandi difficoltà perché è molto difficile da far capire. Dunque, immaginatevi la battuta classica dei quattro quarti, no? È un gioco geometrico, è un gioco neanche geometrico, matematico, è un gioco di frazioni. Allora, la battuta, i quattro quarti, significa che contiamo sempre 1, 2, 3, 4. Questi quarti possono essere a loro volta scomposti in frazioni più piccole, quindi un quattro quarti possono essere 8 ottavi, se ognuno di queste battute 1, 2, 3, 4, noi la scomponiamo in 2, diventano 1, 2, 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4, ok? La possiamo scomporre in 8, la possiamo scomporre in 16 e la possiamo scomporre anche in 32. Fermiamoci a 16. Se noi dividiamo in 16 parti, ok, questo per noi è quadrato, 16 sedicesimi. Il nostro amico ogni tanto si diverte a suonare in 17 sedicesimi, cioè ne mette uno in più. Questo che cosa vuol dire? Che il suo fraseggio con le mani aumenta di un colpo ogni volta la battuta successiva. Quindi il 17esimo sfora in quella successiva, e questo vuol dire che non è più in sincrono con la cassa e tutto quanto si sposta un pochettino più avanti. Perciò la quadratura del fraseggio ritmico non ce l'hai alla seconda battuta, alla terza battuta e alla quarta battuta, ma ce l'hai, se va bene, alla quinta battuta, quindi alla prima, alla quinta, poi alla nona e poi via avanti così. Insomma, è un giochino molto concettuale ma molto molto intrigante, e crea questa tensione musicale. Un'altra cosa particolarissima del nostro amico Bruford è l'utilizzo di un set misto. Lui è uno che si è divertito tanto negli anni a sperimentare con i suoni. Usa moltissimo i pad elettronici, usa i suoni campionati e arricchisce il suo set di tutta una serie appunto di sonorità anche industriali, sonorità elettriche, elettroniche, utilizza aggeggi vari, utilizza gli octoban che usava anche Stuart Copeland, no? Sono quelle cose lunghe che hanno questo suono molto acuto. Insomma, se poi avrete voglia di andarvi a vedere qualche video, insomma, scoprirete che ha dei set batteristici molto molto elaborati, molto complicati e assolutamente personalizzati. Che poi è un po' il bello della batteria, nel senso, diciamoci la verità, ogni batterista se la monta e se la assembla come più gli aggrada, come si sente più comodo, come gli dice la sua sensibilità. Certo, ci sono dei modi più standard, ma non c'è nessuna regola che ci obbliga a usare la conformazione della batteria in quel modo lì. Ognuno se la monta come gli pare e la arricchisce con tutti i suoni che vuole. Allora, torniamo a parlare di ritmo. Io per far ascoltare il prog ho fatto un po' fatica a scegliere dei brani, perché le canzoni del prog sono lunghissime, sono brani da 12, 13, 15 minuti, sono delle vere e proprie suite, ed è lì che si assapora tutto il meglio di questo genere, che è fatto di aperture maestose, quasi sinfoniche, a momenti più intimi, si alternano dei brevi break, dei piccoli accenni, sono delle idee musicali che vengono prese, elaborate e poi riprese successivamente. In questo somigliano molto alle sinfonie dei grandi compositori, però diciamo rifatte in chiave rock. C'è un progetto, diciamo uno spin-off dei King Crimson, che fa appunto Bill Bruford con il bassista, e si chiamano UK, una band che ha fatto pochi dischi, ha fatto anche ha durato poco tempo, perché poi uscito Bruford ha fatto credo il primo disco, adesso vado a memoria, io non sono un grande esperto di storia musicale, sono solo uno a cui piace ascoltare delle cose. Mi ricordo che dopo di lui ha suonato Terry Bozzio, che è un batterista di cui parleremo prossimamente, perché è stato uno di, diciamo, dei batteristi di Frank Zappa, già solo questo basta per qualificarlo, ma insomma, per capire qual è la familiarità che ha Bruford con i tempi dispari, ho scelto questo brano, che invece è un brano in 7/4, è abbastanza leggibile musicalmente ed è un brano davvero bello. Si intitola In the Dead of the Night, che vuol dire, la traduzione significa nel cuore della notte, che dicevo, in the dead sarebbe nella morte della notte, invece nel cuore della notte. Allora ascoltiamoci questo brano in 7/4 e cominciamo a entrare ancora un pochino meglio dentro il concetto di tempo dispari. Vai! We'll be right back. Niente male, diremo, niente male il nostro amico Bill Bruford. Ecco, questo è un brano coi tempi dispari, suonato tutto in 7/4, e che ci, come dire, ci fa capire come il Volpone, che non è altro, riesca in qualche modo a mascherare questo tempo spostando gli accenti del rullante, facendo a un certo punto in modo che questa... il rullante, soprattutto nella parte centrale, cade nel 2, nel 4 e nel 6, c'è questa misura in più e quella è facilmente intuibile, insomma. Però poi nel corso della canzone lui lo sposta questa accentatura in modo che a lui risulta perfettamente naturale, a noi all'orecchio suona bene, ma in realtà è tutto molto molto matematicamente complesso. Tra l'altro, così una piccola nota, l'amico Bruford ha dato, come dire, vita anche a un interessante esperimento di double drumming, no? Suonava insieme a Pat Mastellotto, sempre con i King Crimson, quindi con due batterie, però al basso avevano un signorino che si chiama Tony Levin. Ci sono questi video, cercatevi ad esempio, non so, un brano si intitola Indiscipline, fa paura, c'è Tony Levin che sostiene di suonare il basso, in realtà suona un arnese che non so neanche come si chiama, una roba con 19.000 corde. E Tony Levin è un metronomo che suona in 4/4, mentre le due batterie suonano una in 5/4 e una in 7/4. E comunque in qualche maniera tutto questo minestrone funziona perfettamente in un'armonia assolutamente coinvolgente. Viva il prog, viva la matematica nella musica, e cambiamo pagina, perché adesso voglio far sorridere quelli un po' più giovani di me, e ce ne saranno spero moltissimi all'ascolto, perché parliamo di un artista funambolico, un grande soggetto non solo batteristicamente parlando, ma in generale. Parlo di Phil Collins, e adesso qualcuno sorriderà perché probabilmente di Phil Collins conosce soltanto la carriera da grande pop singer, come si suol dire, cioè da cantante, da quello che negli ultimi, credo forse 20 anni, è diventato famosissimo appunto come interprete di canzoni pop, e ne ha fatte anche di bellissime oltretutto. Però prima di diventare un buon cantante, anzi un grande cantante, perché io cambierei immediatamente la mia carriera con quella di Phil Collins, è stato un grandissimo batterista, determinante, importantissimo, ed era il batterista con i Genesis. Ai tempi in cui Peter Gabriel, e torna sempre il mio mito musicale, Peter Gabriel era il leader, o meglio era il frontman dei Genesis, perché di leader non si può parlare, era il frontman dei Genesis, e quindi Phil Collins stava dietro ai tamburi. Hanno registrato dischi memorabili, meravigliosi, naturalmente meravigliosi per chi ama il genere, insomma, ma credo anche per chi non ami profondamente il prog rock, ci sono alcune cose assolutamente imperdibili dei Genesis e vale la pena ascoltarli. Comunque diciamo che con i Genesis Phil Collins è stato comunque un batterista capace di grandi virtuosismi tecnici, di grandi, come dire, ha dato vita a grandi ritmi, a grande sonorità, insomma ci sono anche canzoni, tipo adesso io non le posso mettere perché come ho detto prima sono lunghissime, ma tipo ce n'è una che si intitola Dancing with the Moonlight Night, dove lui suona delle poliritmie pazzesche. Oppure ci sono addirittura alcuni brani sempre nello stesso disco, ce n'è uno che mi fa impazzire, si chiama Third or Fifth, praticamente a un certo punto si perde il senso del ritmo, non esiste più, non si può neanche più parlare. Io ho cercato le partiture, no, perché dico la verità, non è che sono così bravo che all'ascolto riesco a intuire la scansione ritmica, mi sono cercato le partiture e vi assicuro che a un certo punto la notazione musicale perde di ogni significato, cioè la batteria fa delle cose in 316esimi, non si capisce più che cosa fa. Però lo fa, e io non credo che sia soltanto puro istinto, ma c'è una grande competenza musicale in questo, la fa e la fa bene, e soprattutto nella parte centrale dove c'è l'assolo, insomma se vi capiterà di ascoltarlo, Third or Fifth, fa veramente una roba meravigliosa. Comunque, alla faccia di chi sostiene, insomma, che questo approccio molto cerebrale alla musica sia, come dire, destinata a produrre un esito molto freddo, molto poco coinvolgente, io rilancio facendovi ascoltare uno dei brani molto belli dei Genesis, che si intitola Riding the Scree. Non mi chiedete cosa significa, questa è la traduzione, l'ho cercata. È un brano che è suonato in 9/8, ok? Come prima il 7/4, il 9/8 è un tempo ancora più bastardo, diciamo, perché c'è quell'ottavino in più che veramente musicalmente è una cosa poco significativa, no? Però questo leggero, come dire, questa leggera zoppia ritmica produce risultati assolutamente meravigliosi. Io ve la faccio ascoltare e poi commentiamo di nuovo un pochino meglio il drumming di questo amico. Senti già l'approccio. We'll be right back.

alzando la frana. Ho guardato mentre andava avanti il brano, insomma. Allora, avrete ascoltato una grande capacità del nostro amico Filippo Collins di usare i tempi di Ispa. Avete sentito con che leggerezza, con quale naturalezza riesce a entrare dentro questa scansione ritmica molto elaborata? Bravo Phil Collins, che poi tra l'altro ha un sacco di altre qualità, un sacco di altri meriti. Ma prima di raccontarveli, me lo sono appuntato perché sennò me lo dimentico, mi sono reso conto di aver usato una parola magari non facilissima, e la parola in questione è poliritmia. E quindi apriamo un momento Quark senza la sigla, regia, grazie, perché abbiamo bisogno di fare una cosetta che io ho preparato sempre mentre ascoltavo questo brano, ed ecco perché mi sono preso anche la briga di guardare. Dunque, grazie all'aiuto del nostro fedelissimo metronomo, noi adesso faremo un piccolo esperimento su che cos'è la poliritmia. Allora, la poliritmia significa la sovrapposizione di ritmi differenti l'uno con l'altro. Allora, il metronomo, che abbasso anche la base, il metronomo, che è un attrezzo fondamentale per noi batteristi, è quella cosa che ci dà il tempo. Io adesso setto un beat a 70 bpm, quindi 70 battute per minuto, e suona più o meno così. Spero che si senta. Ok? Allora, all'interno di questi bpm contiamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, continuate a contare. Se io lo divido in 2, ho un tempo binario, quello che dicevo prima, degli 8 ottavi, no? E suona così, userò una penna. Si sente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Ok? Questo è un tempo binario. Con la stessa pulsazione, tenendo questi BPM qua, possiamo dividere il tempo in maniera ternaria, quindi usando la famosa terzina di cui forse avevamo parlato, e suonerà all'incirca così. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? È chiaro? Allontano leggermente il metronomo perché a questo punto mi servono entrambe le mani, spero che si continuerà a sentire. Allora, userò con la mano sinistra, diciamo, faccio il tempo in 2, batto sul tavolo con le dita, sentite il suono? 3, 4. Si è spento il metronomo, aspetta. Ripartiamo, metronomino, su, vai. 3, 4. Con la penna facciamo il 3. Ok? 2. 3. Adesso li sovrapponiamo. Piccolo inganno, ho invertito le cose. Ho messo il 3 dove era il 2 e il 2 dove era il 3, giusto per giocare un po'. Adesso lo rifacciamo. Questo, sentite questo qua, sarà il 2, ok? E va così. E il 3. Ok, ho giocato un po' a invertirle qua e là, spero che si sia sentito e di non avervi troppo annoiato perché è una nozione molto tecnica ma molto, secondo me, affascinante. Ecco, giocare, ritorno alla base, grazie regia, rimettere il 2 nel 3 oppure il 3 nel 4, il 5 nel 4, il 7 nel 4, sono dei giochini mentali molto molto divertenti, molto intriganti, che costituiscono, diciamo così, la poliritmia. L'uso delle poliritmie è naturalmente molto molto molto utilizzato dentro il prog rock. Ma andiamo avanti, dicevamo, che cosa ha portato di unico nella storia della musica il drumming di Phil Collins? Intanto il suo suono, quel rullante, quel suono che è proprio tipico di Phil Collins, quello che sentite... Quello si chiama gated reverber, cioè è un effetto, chiaramente non esiste uno strumento, non esiste un rullante che faccia quel suono lì, viene processato dai microfoni, ma questo se l'ha inventato lui, è una specie di, appunto, riverbero, che è una sorta, per i più profani, una sorta di eco che si mette su un suono, che però a un certo punto viene tagliato brutalmente e fa quell'effetto che l'ha inventato lui, e poi naturalmente è piaciuto così tanto che è diventato uno standard per tutta la musica pop, o comunque, diciamo, è il suono degli anni 80, il suono della batteria degli anni 80, è il suono di Phil Collins. Poi il vecchio Phil purtroppo ha avuto incidenti di percorso, vabbè, Peter Gabriel è uscito dai Genesis e lui si è scoperto anche cantante con i Genesis, poi le strade si sono separate, lui ha iniziato a fare una carriera da solista, poi ha avuto dei problemi ai tendini e adesso non riesce più a suonare, triste destino per un batterista che veramente è stato un grande innovatore. Tra l'altro ha suonato con una formazione di jazz sperimentale che si chiama Brand X, che io non riesco a farvi ascoltare sempre per ragioni di tempo, ma dove veramente sentirete, lo posterò nella nostra pagina Facebook, ascoltatevelo perché veramente c'è un batterista di cui non si sospetta probabilmente l'esistenza. Comunque è uno di quelli che ha detto: è meglio un silenzio al posto giusto che mille passaggi inutili. E invece lui, per farci così, per smentire queste sue parole, che mi sono appuntato, non so se hai sentito che questa l'ho letta, ho scelto una canzone che invece è stranissima perché è suonata in 13 ottavi, senti quanto si divertono a mescolare le carte, 13 ottavi, però è suonata talmente bene, talmente con questo gioco di spostamento degli accenti, che suona quasi come un brano quadrato, tant'è vero che ha avuto anche un discreto successo in discoteca. La canzone si intitola Turn It On Again, loro sono i Genesis e lui è Mr. Phil Collins. L'ho lanciata quasi bene questa. We'll be right back. E naturalmente siamo più o meno nei paraggi della fine dell'esperienza prog. Qua i Genesis stanno già, come dire, ammiccando, strizzando l'occhio allo sviluppo che sarà poi la deriva più pop dei loro brani, insomma, no? Però questo era per far capire, intanto c'è un Phil Collins che canta e un Phil Collins che suona in maniera meravigliosa questo tempo dispari, facendocelo sembrare naturalissimo. È un bell'inganno che fa un gioco di prestigio, bravo Phil. Ripeto, uno dei batteristi forse sottovalutati, perché di lui si ricorda maggiormente appunto la componente più da frontman, da cantante, tra l'altro bravissimo, ci sono dei brani che io adoro, ma insomma è stato un grandissimo batterista e resterà nella storia per tutto ciò che ha portato come contributo al nostro amato strumento. Passiamo al terzo dei grandissimi musicisti, io lo dico, questo mi sta antipatico, Neil Peart dei Rush. Non so per quale motivo, mi sta antipatico a pelle, forse perché lo chiamano il professore, ma al di là dell'antipatia personale che nutro nei suoi confronti, senza alcun motivo, non mi ha mai fatto niente, tra l'altro è un musicista strepitoso, straordinario, però non so, sarà per quella faccia da Tom Hanks che si ritrova. Sarà che appunto ha l'aspetto più lontano dai canoni del batterista che io mi posso immaginare, c'ha sempre questo zuccottino in testa. Non lo so per quale motivo, insomma, un po' a pelle mi è antipatico, ma è un musicista, ragazzi, di una qualità assoluta. Non a caso è sempre citato, spesso e volentieri, si fanno le classifiche un po' così a muzzo, e quasi sempre risulta vincente nelle classifiche dei migliori batteristi, dei batteristi rock più importanti, più influenti. E poi c'è da dire che i Rush hanno scritto pagine e pagine di storia della musica meravigliose. Beh, non fosse altro che sono canadesi, già questo gli vale comunque tutto il merito del mondo. Ma comunque sia, torniamo a bomba sulla qualità del nostro amico Neil Peart. Neil Peart, detto appunto il professore, perché è un batterista. Se prima ho parlato di Bill Bruford come un padrone dell'indipendenza degli arti, Neil Peart sembra una macchina assemblata con parti differenti. Ogni arto che possiede, ma credo anche le dita dei piedi, sono capaci di muoversi in maniera totalmente indipendente dalle altre. Questo gli permette di costruire ritmi assolutamente irripetibili, e fra le canzoni dei Rush credo esistano le partiture di batteria più complicate da imparare per un neofita. Questo però non vuol dire che Neil Peart non sia un musicista empatico, uno che ci mette feeling, anzi lui è famosissimo per tutti i suoi meravigliosi assolo nei concerti, ma di cui parliamo dopo, perché voglio dare spazio alla musica e mi rendo conto che ci stiamo avvicinando pericolosamente alla fine della puntata. Allora partiamo subito con questo capolavoro dei Rush che si intitola Tom Sawyer ed è forse uno dei loro pezzi più rappresentativi. Inizia subito così a bomba. A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, me. La complessità ritmica di questi brani è da mettersi le mani nei capelli. Questi passaggi che sembrano così naturali, probabilmente a un ascolto un po' superficiale, nascondono in realtà una padronanza tecnica dello strumento spaventosa, spaventosa. Quindi un grande applauso al maestro Neil Peart per questa sua capacità di essere leggerissimo dietro i tamburi, eppure fluido, eppure potente, eppure presente. Vabbè, insomma, dicevo prima che viene celebrato dalla comunità dei batteristi proprio per la sua capacità di costruire questi assolo di batteria i più belli del mondo, si dice. Abbiamo parlato di grandi assoli, no? Nelle puntate precedenti abbiamo sentito quelli del meraviglioso John Bonham, abbiamo sentito quelli del grande Ian Paice, abbiamo sentito addirittura quello di Tommy Lee, il grande tamarro del rock, che fa del suo assolo, insomma, un momento più alto del suo spettacolo. Gli assoli di Neil Peart sono delle vere e proprie composizioni. Lui li costruisce a tavolino, in qualche modo, nel senso che racconta una storia, una narrazione. Lui, come dire, in più di un'intervista ha rivelato di costruirsi un film di eventi e di musicare come colonna sonora questo film. All'interno di questa sua struttura, però, quindi fatta di ritmi, di tempi, di modo che il suo assolo fluisca non soltanto in base emozionale, ma anche con un, come dire, con dei criteri razionali costruiti, lascia un largo spazio di improvvisazione al feeling del momento per metterci dentro questo calore e questa voglia di comunicare le sue passioni. E questo rende i suoi assolo davvero davvero memorabili. A proposito, poi, se no poi mi dimentico, di colonne sonore, se vi capita riguardatelo, Birdman, film meraviglioso che ha vinto l'Oscar, cos'era, l'anno scorso forse. Insomma, la colonna sonora è interamente suonata alla batteria dal grandissimo Antonio Sanchez, batterista di cui sicuramente parleremo prossimamente. Non lascio troppo tempo alle parole perché voglio farvi ascoltare il capolavoro probabilmente dei Rush, o perlomeno quello che io considero tale, è YYZ, un pezzo straordinario. Eccolo qua, l'inizio è unico e speciale. E a proposito di tempi dispari, fino all'ultima nota, un capolavoro dei Rush, YYZ. E adesso mi perdonerete perché siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata. Io credo di aver toccato il punto più basso della radiofonia mondiale con tutta la storia sulle poliritmie, però ragazzi, io amo il mio strumento e spero che mi perdonerete, perché quando c'è l'amore, all'amore si perdona tutto quanto. Io mi rendo conto di essere arrivato alla fine della puntata, quindi vi lascio con questa perla dell'ultima formazione che ho scelto per parlare di prog rock. Loro sono Emerson, Lake e Palmer. Alla batteria c'è Mr. Carl Palmer, lo faccio già partire così riesco a salutarvi, mentre ascoltate The Gnome, lo gnomo, tratto da un disco meraviglioso che è Pictures at an Exhibition. Lo faccio sempre così, con l'accento un po' stupido. È una canzone, un brano insomma, rubato da Mussorgsky, un duello fra la batteria di Carl Palmer e l'Hammond di Keith Emerson. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati mia e in nostra compagnia. Questo è Radio 23, questo è Into the Groove. Ci sentiamo la settimana prossima con un'altra grande puntata, perché ho un sacco di cose ancora da raccontarvi e sempre più voglia di farlo e sempre meno tempo per farlo. Grazie, ci sentiamo presto, ciao a tutti!